Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori. Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante. Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. Avete appena concluso le due ore passate con Edo e ora ne passerete una, sempre che lo vogliate, assieme a Giulio Caperdoni con Eclettica tutti i giorni fra le 19 e le 20. Poi per un'ora ci sarà Marco Garavelli, dalle 20 in poi, appunto. A seguire Claudia con altre due ore, la buonanotte vi verrà augurata, come sempre, da Maurizio Faolisi. Questo è il palinsesto serale di Rock FM, questo invece è il mio indirizzo di mail, giulio@radiorockfm.com, per scrivermi direttamente, voglio i vostri mail, poi le vostre parole diventano parte della trasmissione, ma anche per iscriversi alla lista nera di Eclettica, con cui poter ricevere settimana dopo settimana la playlist della trasmissione. E myspace.com/eclettica invece il nostro spazio su internet. Rivolgere la parola ai morti. Com'è triste questa abitudine degli esseri umani. Ma ancora più triste, non posso fare a meno di pensarlo, è la convinzione che dopo la morte essi mantengano l'aspetto che avevano in vita. La percezione che uomini e piante abbiano uno stesso destino è il tema eterno di tutte le liriche. Ho dimenticato il nome del filosofo che ha scritto questa frase. Non so neppure ciò che veniva prima o dopo. Ricordo soltanto queste parole e quindi non so bene se per piante si intendessero solo fiori che sbocciano e foglie che cadono, oppure se vi fosse un significato più profondo. Questo era l'incipit di Lirica di Yasunari Kawabata. your little friend. Hey! What are you doing? Put me down! I don't like to be manhandled! Just calm down, Jed. It doesn't feel good. It makes me feel small and powerless. You done? I'm gonna shoot you in your dang eye. In your dadgum eye. Yeah, keep shooting. Nothing's gonna happen. Now you know my shame. Jedediah's impotent rage. His guns don't fire. Take me away. This ain't over. You ain't seen the last of me. I don't want to hear it, okay? Thank you. Dennis Coates, la formazione, il duo giapponese che da quando trasmetto sta suscitando sempre più il vostro interesse e del quale mai darò il titolo in onda. È impensabile che io riesca a dire, soprattutto senza scoppiare a ridere, un titolo tutto in giapponese, poi così lungo. Per fortuna ci sono le playlist in eclettica che mi permettono di evitare di fare certe figuracce. Invece quest'oggi la trasmissione si era aperta, prima del brano dei Tennis Coats, con una canzone da quello che è il disco degli Evangelicals, dal quale io sono andato ad estrarre Skeleton Man, disco del quale già settimana scorsa ho parlato più che abbondantemente, visto che esiste anche il podcasting, come spesso dico, non mi ripeto. Ora una formazione che fa di base a Londra, ma anche se sono stanziati nella capitale londinese, hanno radici che passano da Hong Kong per l'Italia e di nuovo Londra. C'è Mauro, alla voce, alla chitarra acustica, e quindi il suo nome tradisce le sue origini, e poi ci sono altri tre componenti in questi Sunny Day Sets Fire, che ci ascoltiamo con Stranger. To be alone, hope to be. le sue fantasie si infransero al verso acuto degli uccelli. Una gabbia di uccelli, grande tre volte quelle che si vedono a teatro, con dentro criminali imprigionati, stava su un autocarro malandato. Il suo taxi doveva essersi inserito in un corteo funebre. L'auto dietro di loro recava sul parabrezza il numero 23. Voltandosi verso il ciglio della strada, vide un monastero zen, davanti al cui portale era apposta una lapide, a ricordo della sepoltura di Dazai Shundai. Sul cancello un avviso. Lutto del tempio. Funerale in corso. Questo era l'incipit di Uccelli e altri animali, di Yasunari Kawabata. But I was strange enough. I should never meet or deserve your love. Your love, your love, your love, your love. Put me down! I don't like to be manhandled! Just calm down, Jed. It doesn't feel good. It makes me feel small and powerless. Sono in ritardo. Che cosa c'è? Posso fare